come prima, perché prima era proprio sotto stress. Il movimento che facevo era proprio stressante, dai. O perché ti stancava un bel, ti stressava, capito? Prima non era luce di gioco, stavi sempre lavorando, ti fermavi un attimo, era diverso, dai. E non c'avevi niente, così? Sì, ce l'avevo, ma non ho scoperto i medici del lavoro a me, però molto più bassa la glicemia e cose, ma anche adesso, anche 89 mi scende a volte, 89, 90, dipende, però ci sono dei picchi, e ballerina, ci sono dei picchi che mi sale anche a 250, 230. Sì, vabbè, quello anche a me, ma quello già è anche l'umore, anche lo stato d'animo e anche a volte dalla roba che mangiamo che non è sana. Lo secondo ce l'avevo io stamattina. In pratica ho preso, abbiamo mangiato, sono andato con mia moglie a fare colazione, ci siamo trovati, abbiamo fatto colazione presto, abbiamo mangiato la frittella, abbiamo fatto 3 unità di insulina, movimento, cose, arrivo, vado in diabetologia, così, per farmi questa roba, sono andato a lavorare, rientro a casa, lo secondo ce l'avevo 49. Ero tutta tremarella, ho detto boh, chissà, mi faccio la striscia 49. Come mai? Hai mangiato anche la pasta, boh. E a volte succede, dai, a volte io mi meraviglio, no? Per dire, l'altro giorno ho mangiato un bel a cena, la mattina mi sono alzato a 132 e ci sono giorni che non mangio nulla, quasi nulla, e mi sale, boh. Perché a volte a me succede molto una cosa, a me succede molto una questione che mi faccio l'insulina dove vicino dove me l'ho fatta per esempio il giorno prima, e magari ho qualche nodulo o qualcosa interno e non sfoga di sé, non agisce, e allora non fa effetto. Io la faccio in pancia, nelle cosce, nelle braccia di meno, però. No, io la faccio tutti i posti. Vabbè, sempre lì, nei posti che si deve fare, anche nelle, diciamo, nei gluti. Sto facendo la notturna nei gluti, adesso, perché faccio un mese nei gluti, un mese nelle cosce, e quella della notte, capito? Poi le altre me le faccio nella pancia o nelle braccia. Ma io dipende dalla giornata. Cosa già? Io lo faccio senza aspettare un mese, perché io la metto in un posto un giorno, in un posto l'altro, capito? Ma il marito scopre il tradimento della moglie, vergogna, cazzo in macchina la ciappagli, questo già è un casino, quello è un casino, guarda, il tradimento è un problema, il tradimento è un casino, è una cosa che non si può perdonare, almeno dimmelo, non c'è più niente, però non farmi una cosa del genere, perché non lo so. Il tradimento è una cosa che non sopporterei manco io, dico la verità. Preferisco che uno mi dica non ti amo più, ti mollo, piuttosto che tradirti. Sì, è vero. D'accordo, sono d'accordo con te. Sempre col super tarto scendo già. No, adesso sono col Galaxy. Ah, positivo. Sì, va bene. Io sono agganciato. Sono con Lignaretto, super tanto, 2009 Lignaretto. Guarda, a caffè sono belli tutti quello che vuoi, però il baracchino c'è sempre il suo perché. Io ripreferisco i baracchini agli HF, lo sai? Sì, diciamo che è vero, però dai, l'HF esce in un modo più omogeneo, più, diciamo, tra parentesi, più professionale, tra parentesi, che poi non è neanche vero, ma a me più che altro mi piacciono perché mi riempiono molto, capito? Guarda che ci sono dei baracchini che escono meglio degli HF. Sì, e beh, basta guardare quello che c'hai tu, quello che c'hai tu che mi hai fatto vedere, quello che metto che esce con 30 watt, per esempio esce meglio del 27, esce meglio del Nikon. Il Cobra è un apparecchio buono. Li ho visti, li stavano vendendo qualche 500 io, su TikTok, e io non l'ho mai messo servita, perché è un apparecchio che l'ho preso perché mi è proprio piaciuto, l'ho pagato perché l'ho pagato, l'ho pagato 4,50, non l'ho pagato poco. Sì, sì, sì, però se ci pensi, adesso guarda come sto facendo io, gli ho abbinato un minaretto ed esco con 40 watt, perché mi sta dando 40 watt adesso con la portante così, però secondo me io posso stare anche 20 minuti con la portante inserita e con questo wattaggio non mi succede niente, anche perché gli ho messo adesso una ventola bella sopra, una bella ventola, e secondo me posso stare anche una ventina di minuti con la portante schiacciata, non crea problemi, non crea problemi. E diciamo che come radio adesso è molto superiore, diciamo, a qualche HF. Sì, sì, sì. Vabbè, ci sono molti HF che non sono destinati per andare sulle bande in AM, dai, sulla 27. Però ci sono quelli che vanno ai 27, sì, i Kenwood sono eccezionali, però ce ne sono tanti altri che non sono adatti alla 27, magari vanno molto bene in banda laterale, però sono fatti per quello, e si adeguano ai 27. Sì, sì, sì, sì, è vero. Questi comodi che ho io in 27 non serve a niente, diciamo, è una radio pulita, però non serve a niente. Però già se tu lo senti in ricezione, se tu lo senti in ricezione, al Kenwood gli fa 10-0. Sfido chiunque, ma chiunque dica che 4,40, 9,80, ci vuole per far uscire quelle radio lì, per essere a parità di un ICOM in ricezione, invece devi metterci gli SP, perché altrimenti te ne mangiano la testa. Io a questo ICOM non gli metto un filtro, non gli metto niente e sembra un hi-fi in ricezione, è un hi-fi. Infatti ce l'ho solo in ricezione, l'ho tolto anche il microfono, l'ho provato ieri quando ero in voi con te, però ho tolto anche il microfono. Questa è una radio che deve andare in ricezione. Sarà una proporzione banale, ma anche il Galaxy ha una ricezione stereofonica, se tu lo metti a tutto il volume è stereofonico. Sì, sì, sì, sì, però già niente a che vedere con l'ICOM, niente a che vedere. Ripeto, il 27 sarà più forte anche di questa radio, però guarda come ricezione io, ma è una cosa che io posso dimostrare quando la si vuole, ma con chiunque radioamatore dica ma quello gli ha esito. No, l'ICOM in ricezione e ICOM in banda laterale, diciamo banda radioamatoriale, sono i numeri uno. No, non c'è storia, poi mi posso dire profani della Kenwood, il 27 è tutto quello che vuoi, i Kenwood sono forti, però come quelli là in ricezione non ce n'è. E come nel campo fotografico, c'è chi preferisce una marca, c'è chi preferisce l'altra. Io ho avuto sempre Canon professionali, l'ultima che ho avuto di Canon è praticamente la D60, che era l'ultima macchina, poi l'ho regalata a mia figlia perché non avevo più voglia. Prima andavo al fototorre, si sono fotografati i cavalli in via mare, quando correvano i cavalli che c'era quella specie di ardia che fanno lì ogni anno. I cavalli li ho bloccati con la bocca aperta e con lo sguardo fisso correndo, e il padrone, il cavaliere lo stesso che li incitava a correre, si vedeva proprio perfettamente l'immagine di quello che è la cosa reale, capito? Sì, sì, è vero, ma tu lo sai che la fotografia piace anche a me, diciamo la cosa della fotografia piace anche a me, però non ho mai avuto lo spunto per apprendere quella passione. Eppure piace, eppure a me, guarda, le foto, fare foto mi piace tantissimo. Forse perché non sono professionalmente, diciamo, preparato, e anche non ho avuto mai lo spunto o qualcuno che mi facesse vedere il tipo di programma che c'è da seguire, perché altrimenti a me fare foto, queste cose mi piace, però diciamo che non l'ho mai provato. Mi segui? Secondo me è tutto un mettersi. Io, vabbè, ho preso l'enciclopedia della fotografia, dei vari libri, ho letto molto, studiato. Prima di prendere la macchina fotografica professionale ne ho avuto diverse, diciamo, da prezzo, dai. E poi ho cominciato con le professionali, capito? Con le macchine a pozzetto, ho fatto qualche matrimonio insieme a un amico che è fotografo, mi ha aiutato in qualche matrimonio e ho cominciato così. Poi lui mi diceva i trucchi, le cose, sa, ho messo filtri, di tutto e di più. Poi di colpo mia figlia mi diceva: che bella macchina che c'è, papà. Alla fine, Gavi, ascolta, fa una cosa, prenditela, va. Ma davvero? Guarda che non ti voglio togliere nulla, non ti preoccupare, tanto non me ne frega, adesso ce l'ho nel telefono, la macchina fotografica, già me li bozzo. Ma beh, che è tutta una cosa diversa, Gavi. Io facevo delle fotografie bellissime dei tramonti, mi piaceva fare le gare delle macchine, tutte queste cose qua. Andavo e vedevo un fiore, per dire, piccolissimo, lo ingrandivo, facevo la macrofotografia, gli uccelli, di tutto e di più, facevo qualsiasi cosa. Sì, sì, è bello. Non ho mai avuto la cosa di provare, non ho mai avuto l'opportunità di provare quell'esperienza. Ti volevo dire una cosa che mi sta scappando. Sì, al Palio di San Damino, hai fatto le foto al Palio di San Damino. Sì, quello che fanno in via mare, i cavalli che corrono, che tra l'altro se correva anche quella ragazza poverina, quella che è morta, che è caduta a cavallo. Ma dai, chi è? Non so, fatti una cosa, le sento. Allora, una ragazza di Sassari che però aveva il cavallo da Falchi, dai, dove c'è il Ponte Romano, cioè teneva il cavallo lì, addestrava lì tutto quanto e faceva anche queste gare qua, capito? Era molto bravo. Non lo sapevo. Io un anno ho fatto un chiosco lì al Palio di San Gavino, abbiamo fatto la gastronomia, è stato un successone. Non so se stiamo dicendo la stessa cosa, però Gavi, e questo qua lo fanno in via mare, mettono la terra nel manto stradale, spargono la terra per lo far scivolare i cavalli, poi li fanno fare le corse, devono infilzare l'anello con la spada. Sì, mettono la lubrificazione, io anche di lì nella passeggiata coperta lo fanno, sì, e va a finire quasi la Rinarida, facevano il chiosco la Rinarida pure. Sì, avevano fatto il chiosco io, di lì della gastronomia. Partiva dalla Torre Aragonese questa manifestazione, finì quasi alla Rinarida. Sì, il Palio di San Gavino, mettevano la sabbia. In questo paese va tutto male. Io c'era il carnevale estivo, non faceva venire gente, ma adesso mi sa che un po' se n'è andato questa storia, questa usanza. Sì, se n'è andata, perché non lo so. In Porto Torres c'è qualcuno che non ci crede, però Porto Torres è una città che può avere molto potenziale, lascia perdere persone, però può essere una città che ha molto potenziale. Ma con un porto grande invece arriva solo una nave, quindi fate il conto. Allora, d'estate i turisti arrivano, Gavi, ci vuole qualcosa che li blocchi, che li fermi, che li incuriosisca, che li fermi, capito? Perché lì sono di passaggio i turisti. Quando arrivano con le navi, quelle spagnole, quelle che fanno praticamente, quelle navi tipo, non mi ricordo come si chiamano, vabbè, comunque quelle... che fanno le crociere, dai, se nuovi spagnoli, lo sai la roba che vendiamo, vengono via mare, cavolo, comprano un po' di vini, di cose, io non faccio altro che portare vini, si compra un po' di vini, e così ci vuole qualche cosa che li intrattenga, che e ho visto che ultimamente all'arrivo delle navi avevano messo delle persone con i vestiti sardi che facevano i balletti quando scendevano i turisti e poi avevano messo qualche bancarella per attirare le persone a comprare qualcosa di artigianale, capito? Sì, quello già lo stanno facendo, però già il problema sta nel commerciante. Se arriva la nave, allora se tu vai in una città come Porto Torres, no? Non può mai rinascere se tu la domenica non apri l'attività. Certi bar a Porto Torres la domenica mattina non aprono, mi segue, perché dice tanto non c'è nessuno, ma tu dai servizio, non lavori una settimana, lavori due settimane, poi sanno che sei aperto, la gente viene, inutile che arriva una nave spagnola e trova ristoranti chiusi, bar chiusi, Non c'è niente, non ci sono bancarelle di souvenir, non c'è nulla. Anche, cioè, dai il servizio ai ragazzi che non stanno lavorando, fagli fare un qualcosa, fagli organizzare, può essere anche una persona che prende e si compra 20 litri di vino, al turista, quando arriva e c'è il ragazzo che vende 20 litri di vino, che ha 20 litri di vino bianco e 20 litri di vino rosso e lo fa pagare un euro a bicchierino da 0,50, non da 0,5, con il calicino per assaggiare, che ci mette su un euro a bicchiere, quel ragazzo ha lavorato, mi segue. Si dice che è lavoro nero, ma intanto i soldi, l'economia gira così, nel paese. Vai ad Alghero e c'è tutto, a Castelsardo si sta diventando una buona potenza. Il portatore è buono, lo so, dice ma quello non lo puoi fare, ci vuole quello, ci vuole quell'altro. Non funziona così. Secondo me devono dare iniziative ai ragazzi e far fare un qualcosa di innovativo, è vero. Gabi, mamma diceva volere e potere, se vogliono posso incrementare un po' la vendita, non è sbagliato, specie a Porto Torres che c'è molta mancanza di lavoro, gente disoccupata eccetera eccetera, quindi incrementare un po' le vendite, il lavoro non sarebbe male. Anche perché poi la città viene pubblicizzata, sai come sono i turisti, ritornano al posto loro e parlano con gli amici, e vai lì, anche a Porto Torres hanno fatto tante cose, guarda ti faccio vedere le foto, capito, sai, è anche una pubblicità. Esatto, possono fare, quando ci sono queste cose qua, possono fare tipo cortes apertas, diciamo chi fa le seadas, chi fa la zuppa di pesce nelle vie, nel centro storico, le fanno, ci organizzano una mappa di dove ci sono questi corti e le dai a questi locali o questi garage che fanno assaggiare chi il vino, chi si prende e fa le cose gratinate buone, chi fa le cose, dai, delle prelibatezze, che a Porto Torres la cucina è molto buona, dei polpi agliata, polpi insalata, cosa ne so, fai pagare in ogni parte, in ogni garage dentro, in ogni casa, chi vuole mettere a disposizione il proprio locale, la propria casa, il proprio garage, la propria cantina, fai pagare 5, 6 euro, 10 euro il turista di lasciare 50, 60 euro, 100 euro quando si trova bene, non gliene frega niente, mi sai cosa voglio dire io, anche nel centro storico fai una mappa che possa far lavorare tutta la città e tra un garage, tra una casa e l'altra, tra un punto e l'altro metti un chiosco con del vino buono, fai a far assaggiare il mirto, vendi, chi vende i souvenir, chi vende le maschere, chi vende quello, e così si lavora. Io davvero il primo che scendevo d'estate a Porto Torres perché c'era karaoke da tutte le parti, c'era festa, c'era, si ballava in piazza Garibaldi. Questi periodi qui sono sceso e non è più come prima, non c'è più movimento. No, non c'è più, perché non ti fanno fare, tu chiedi qualche autorizzazione, vigile, tutto, ti dicono di no. Pensa, noi degli amici volevamo organizzare anche un furgone, no? Per fare una cosa per i bambini, per mia figlia, per la figlia di, per i figli di questo, per i figli di questo amico mio, dai, siamo tutti ragazzi, abbiamo famiglia. E fare un furgone io, prendere e mettere quella carta, ma spese no, senza che venga nessuno, prendere il vestito di carta regalo e fare il cassone che è chiuso con una scatola a regalo, vestirsi da Babbo Natale e andare in piazza e dare il coso. Non ce l'hanno fatto fare, capito? Non ce l'hanno fatto fare. Vedi, anche se la burocrazia si mette di mezzo. Già che questi vigili non li vedi mai a Porto Torres, mia sorella mi ha detto, tu mai più visto dei vigili, io no. Li vedi solo quando devono mettere le multe e basta, poi non si vedono vigili. E mia sorella praticamente la macchina l'ha investita e cosa, e l'hanno portata all'ospedale, tutto quanto, meno male non si è fatta male più di tante via delle vigne. E non c'era un vigile, non c'era nessuno, capito? Dice, i passaggi pedonali, prima si vedevano i vigili, adesso hanno messo questi non vigile e loro si lavano le mani. Sì, perché sono, guarda, fanno schifo. Ci sono solo quando devi prendere, quando devono mettere verbali, perché se prendi un buco, se prendi una cosa, la colpa a partire proprio la tua, anche se c'è la strada rotta, capito? Quindi sei già di verbale se ti fermi in mezzo strada. Non lo so già. È sempre bella la radio già, io so sempre quella a fare attaccato, ma si è abbassata, ha fatto qualcosa. No, c'è anche di picchi positivi oltretutto. Positivo. Ho messo una bella ventolina, è sempre freddo. E ciccia, ma va bene così. No, perché lì ci arrivavo, però era. Dai, preferisco così. Tornando al discorso di Porto Torres, anche la domenica tu vai adesso, belle giornate, magari in primavera, e vai in piazza, non c'è niente, non c'è nessun tipo di attività, diciamo, che possa trattenere i bambini, solo, diciamo, gente al bar, ma al bar rimangono un caffè, una gazzata, una bottiglietta di birra e niente di che. Vai a lungomare, un po' di gente c'è, come passi lo scoglio lungo, il deserto, quello è un posto che si può valorizzare. Quando fanno i fettoni a Balai, queste cose qua, si riempie, c'è il mondo, è una location, quel Balai è spettacolare. Sì, ci sono stato, capito? Io ci stavo molto spesso d'estate, sono andato anche a vedere i complessi di tutto quanto, poi frequentavo gli Art Tropical con gli amici, qualche volta siamo scesi al Tropical e c'era sempre gente tranquilla, non abbiamo mai avuto problemi né niente. Però ti ripeto, prima c'era più organizzazione, forse dipende anche dal sindaco, il sindaco che c'era prima, non mi ricordo chi fosse, se era Cussu o chi era, però prima era organizzato meglio, io mi ricordo che se il comune sempre complessi, facevano commedie sassarese, roba di risate, mi invasivo, tutte queste cose. E poi era il coso per incontrarmi con mia sorella, perché abita lì a Porto Torres e lì andava sempre a queste cose qua, quindi se tu volevi trovarla trovavi sempre lì. E niente, ci guardavamo lo spettacolo tranquilli, poi magari andavamo a mangiarci una pizza d'accordo. cose da Massimiliano Ciriera e guardavamo i complessi, non salivamo manco a casa, capito, a mangiare. No, ma infatti la cosa bella di chi viene da fuori, diciamo, da Sassari, è quello che, scusa, quando c'è la città che è in movimento, dice, ma chi me lo fa salire, chi me lo fa fare andare via, poi devo rimanere a casa, quindi invece magari uno si accontenta, si mangia una pizzetta, un panino, una cosa, intanto no, non è che quando sei in quattro persone spendi 20 euro che si accontenta, che ci si accontenta, ciccia, se si sta bene, non lo puoi fare sempre, ma due volte al mese lo puoi fare, spendi 40 euro, 50 euro in un mese per, diciamo, per stare fuori con la famiglia, si sta bene, lo fai. Invece adesso niente, sì, era corso, quello è stato un grande sindaco e quando c'era lui viaggiava, e da quando è entrato quello, diciamo, Mura, che un po' la sua è andata male. A Porto Torres è iniziato a andare tutto male da quando è passato il porto a autorità portuale. Lì è andato tutto male. Molta gente invece è contenta perché hanno assunto guardie eccetera eccetera dell'autorità portuale. E vabbè, io riportavo l'acqua all'autorità portuale, riscaricavo l'acqua. E vabbè, comunque sì, sono cambiate le cose, ma non ti meravigliare perché anche a Sassari la domenica è tutto sarrato, c'è solo il Trismar a Miso, io conosco solo quello aperto, poi tutti gli altri non ne trovi uno aperto di bar. Infatti a fare colazione andiamo sempre gli altri sbar, se no gli altri giorni andiamo al caffè al quadrato. Sì, ho capito, e anche Sassari so che sta diventando un mezzo mortuorio. Vabbè, cosa vuoi ti dica già. Quello che dispiace è che ci rimettiamo tutti, perché è una catena, non è che uno dice non lavora il commerciante, no, se non lavora il commerciante non lavora nessuno, i muratori, dice, ma se si ferma all'inizio si ferma tutto, non è così, se si fa avanti. Si ferma tutto e secondo me è una cosa che è scontata. Quando aumenta il pane, a me mi dicono sempre, a me i vecchi mi dicevano sempre, aumenta una cosa, si danno aumenta rubani, o si aumenta rubani o manca rubani, noi moriamo tutti. Ed è vero, come è aumentata la farina è saltato tutto alle stelle. Sì, ma perché così? Adesso dice che dovranno diminuire anche l'energia elettrica, in modo che recuperano. Guarda, fanno schifo. Intanto il gasolio è di nuovo a 1,90. Ma come si fa a stare uno Stato italiano ad avere il gasolio, che la maggior parte dei trasporti si muove su gomma, adesso c'è il gasolio a 1,90 euro, dove costa poco. Nel rifornitore che c'è a Porto Torres di fronte, dove c'è la NMI adesso per andare dalla circonvallazione, il gasolio a 2 euro. Ma come fai in un paese così, un paese democratico, un paese dove, ripeto, il trasporto si muove su gomma, a mettere il gasolio a una cifra, diciamo, a un prezzo medio di 1,92 euro? Come fai? È una cosa che sta diventando impossibile dal punto di vista sia, diciamo, nella vita giornaliera delle persone, perché chi come me già io per andare a fare la spesa devo fare 5 km per arrivare a Sorso, sono 10 km e sono, se vado due o tre volte a Sorso sono 10 ore di gasolio, mi segue, lui per chi lavora con i mezzi, per chi lavora, perché ha le caldaie, io non lo so, non lo so come andrà a finire, non lo so come andrà a finire, però qualcosa succederà, secondo me qualcosa succede, perché è impossibile che a tutti vada bene. E i riscaldamenti, un po' tutto, anche con lui, il capo condominio ci ha mandato una lettera che praticamente dovrà aumentare anche il condominio perché ha aumentato il gasolio, se no non ce la facciamo a pagare il gasolio che ci mettono, è un casino. E capito, siamo fine del mondo, poi uno che lo usa per lavoro, il mezzo, che deve fare chilometri, non può stare a pagare tutti questi soldi. Io grazie a Dio ho l'impianto GPL, pago 89 centesimi, io con 23-25 euro faccio il pieno, capito? Dipende quanto ne ho sempre di gas, però non metto più di tanto, capito? No, non mi posso lamentare su quello, la macchina va bene, tira pure, l'ho tirata sino a 200 GPL, non è vero che non tira, adesso è tutto diverso, la mia è turbo, sfrutta bene, è fatto proprio dalla fabbrica GPL, quindi lo sfrutta bene GPL. Chi l'ha detto che non camminano? Ma scherzi, camminano le macchine di GPL, non lasciamo perdere le stupidaggini, che non è più come prima, che non è più come prima, e poi si risparmia lo GPL. Altro che noi, aspetta che tra un po' togliamo tutte le macchine a gasolio, tutte qua, andremo a finire male. A me quello che mi sta più preoccupando adesso è questa cosa dell'Unione Europea, che ha dato il via libera a queste farine di insetti, queste farine di grillo. Ma tu lo sai cosa vuol dire già per noi che abbiamo questa patologia, diciamo, che ti permette di vivere, però lo sai cosa vuol dire per noi una cosa del genere, la carne fatta in laboratorio? A me questa cosa mi sta un po' preoccupando, la gente non ne frega niente, non ci sta pensando, io ogni tanto ci penso. Bisogna stare sempre con gli occhi sopra la roba. Sì, hanno dato il via, stanno già facendo le farine e vendendole, capito? Hanno già dato il via, l'ho visto anche su internet, è una cosa schifosissima. Addirittura ho visto dei indigeni, li possiamo chiamare, perché sono indigeni, mangiandosi le cavallette vive, gli scorpioni li bagnano in questa salsa, vivi, e se li mangiano, vivi, e cominciano a mangiare da dove c'è il pungiglione. Allegria, no. Io spero che almeno lo mettano degli allergeni oppure specifichino questa cosa qua, ma io lo spero, perché altrimenti qua c'è veramente da fare casino. Io spero almeno abbia la cortezza di dire che questo pane è fatto con farina di grillo, farina di ma dimmi tu, okay. No. Capì, ma te ne accorgi, perché se fate con farina di grillo il pane salta. E poi fa se lo lasci fuori in cucina, è un casino, devi chiuderlo, devi mettere un posto, devi metterlo sempre alla luce. Ma poveracce queste bestie, cara. Sono state sempre in nuque e adesso le vogliono macinare, Gesù. Adesso dimmi tu, no, adesso qui dovrò mandare tutti a caccia di grilli, adesso si metteranno tutti questi fiori in gamba, adesso la posso fare, io divento ricco, invento qualcosa già qua, ho 7.000 metri di terra, pianto con qualche erba che attira i grilli, poi prendo e chiudo le tette con la rete, gli faccio una rete grande, enorme, e li catturo e me li vendo a farina. Non si pianta, non te le spiga adesso, andremo a caccia di erbe che attirano i grilli. Bravi, io ho visto un capannone, è presente quei cartoni che mettono per disonorizzare gli ambienti dove fanno musica, quelli dove si mettono le uova, ce le presi? Sì, positivo. erano messi uno sull'altro e al sabbio erano tutti pieni di grilli dentro. C'era questo capannone enorme, tutto pieno di questi cartoni. Gli alzavi riuscivano i grilli a migliaia. L'allevamento, capito? E allora dovremmo trovare cartoni di uova. Lo sai che io qua ho un, diciamo, è un contenimento di acqua, è un vecchio, diciamo, un vecchio serbatoio, ma non serbatoio, è fatto tipo una struttura, sembra una, sai, un serbatoio di contenimento acqua, dentro è fatto in blocchetti, è sembra un camerone grande, è quasi 80 metri quadri, è grande, è alto 3 metri, ed è grosso, è grosso. Adesso mi dico, se lo devo fare, quindi lo prendo, lo apro, l'ho già aperto, l'ho fatto apportare, e gli faccio delle finestre, gli faccio questa qua, la cosa che devo fare perché mi sto già organizzando, gli faccio le finestre tutte in giro, e dentro gli metto i nebulizzatori e lo pianto tutto a ballette di funghi, tutto a ballette di funghi lo faccio, compro 70-80 ballette di funghi e lo faccio dentro. È una buona idea, te li prendi pure. Io una volta l'ho presa una e ti dirò che ti ho tolto fuori, solo che non sono saporiti, capito, come funghi ciabili. Li devi mettere con prezzemolo, un aglio, peperoncino, per essere saporiti proprio buoni, dai. Però li compro quelli lì, li danno dentro i cassoni di legno per mettere le ballette e devo mettere terra. La balletta è toglie, la balletta toglie anche 3 kg a balletta, che il guadagno c'è, devi trovare le persone dalle quali venderli, anche se li vendi a, guarda, sono la confezione alle ruspi mi sembra che costa 3,40 e sono, quanto è? 800 grammi, quando io li vendo a 3 un chilo sono alla grande. Vieni, te le raccolgo davanti, quanto due 2 kg, tra tagli, da 6 euro. Io prendo quelli tipo Antuna, gli altri non mi piacciono, quelli tipo Antuna prendo, e quelli lì un po' sono abbordabili, ma i trattaglioni non mi piacciono, non mi sono piaciuti, mi sono più saporiti quelli tipo Antuna, e ne mangio solo io e non li piacciono, i funghi non li piacciono, quindi me ne prendo sempre un pacco, ma li pago quasi 5 euro io, 4,80 euro, roba del genere. E già con anche io prendo quelli di tipo Antuna, sono, però sai cosa già, che lì poi i funghi sono confezionati già quando li fanno, sono confezionati già da un paio, già almeno una settimana, perché tra confezionare cose tutte arrivare al supermercato passano 5 giorni, 4 giorni. Un conto è quando tu per esempio sai che li vende uno, vai e dici beh vado da Davide, mi compro 2 kg di funghi appena raccolti. Li raccogli da casa e te li cucini, lo sai cosa vuol dire? Che il sapore cambia molto, secondo me il sapore cambia molto, io l'ho provato una balletta già e mi sono usciti, non facevo un tempo, era una cosa assurda, e ne ho fatto certi grandi e hanno un sapore totalmente diverso da quelli comprati al supermercato, perché sono raccolti e fatti, non hanno, diciamo che il fungo non suda dentro la confezione, mi segui, e sudando il fungo inizia già a creare una muffa, perché lui è già una muffa, quindi lui diventa ancora più bianco e perde. Però tu se per esempio vieni qua e ti prendi due chili di funghi, no? Da lì, ben ora prendi i funghi, io te li taglio, te li faccio trovare, te li taglio davanti e te li porti a casa e li cucini. Secondo me la persona lo gradisce di più. E quello sì, è come il formaggio, io vado a Usilo, alla rentrata di Usilo c'è uno che vende il formaggio, pastore, vado, mi compro il formaggio che voglio, ricotta bustia, tutto un bel buono. Ed è un'altra cosa di quello che compri, non c'è paragone. Sì, non c'è paragone veramente. Ma lo voglio fare questa cosa, adesso mi devo organizzare tutto l'impianto a goccia dentro, demolizzato, se lui esce dal col caldo e il freddo, capito? Lui esce quando dove c'è umidità strana, quella fa brusa, fresco e caldo, capito? Quindi me l'ho potuto organizzare, ho provato una balletta lì dentro, è uscita la paura, ha sbocciato, guarda, in tre giorni c'erano i funghi, li nebulizzavo, li bagnavo il nebulizzatore la balletta, ma mi ha cucumito già. E adesso lo facciamo, può essere un altro intuito, mi seguo. Allora, noi rivendevamo quelle balle lì, al Tourist Market, e una volta ce n'era una che è andata male, però io non mi sono arreso, l'ho portata fuori e la bagnavo ogni giorno, non sai che sono nati fuori, e me la giubilea di qua. Certo. Io qua se voglio posso vendere di tutto, guarda, io qua ho 40 alberi di arance, 40 alberi di arance, sia alberi di mandarini, mandaranci, fichi, di tutto si può vendere qua, di tutto. E che arancia sono Washington? No, due alberi Washington, sì, no, due alberi Washington, tutti gli altri sono o sanguigne o arance normali. Io sono amico degli arance, sono drogato di arancia, lo sai. Sì, quando è... adesso quest'anno non è... mi hanno dato poco e niente. Come se hanno questi due voi, l'anno prossimo ti chiamo e te ne prendi quanti ne vuoi. Ma lo sai quante ne regalo? A cassette, vengono a cassette e si raccolgono gli amici. No... vengono e se li fanno, perché io non li vedo, ne mangio, a me li fanno salire la glicemia, me la fanno salire alle stelle, ma li vedi che ce l'ho a 110, me la trovo a 280, ma assurdo, quindi non ne mangio, ne lasciamo un paio, se ne mangio un paio Manuela, un paio per la bambina, ma non ne mangiamo. La spremuta la bambina li fai, la spremuta l'arancia. No, io ne mangio due a pasto, capisci, sono maledetto, con le arance mi rubino io. Ne mangio due a pasto, mi piace di un bel... Le nappe le prendo, dai, le nappe che sono le Washington poi. Io mescolo già te li vini e te li fai un po', che non c'è problema. Ma mangio un paio di alberi. Non sono due, dovrebbe essere, no, sono quattro alberi di Washington, perché sono in fila, sono quattro già. E te li fai e te li prendi, a me no, intanto io non me ne faccio niente. Io ti ripeto, un regalo, a chi conosco, ai miei familiari, vengono e se li raccolgo. Se c'è qualche amico che li vuole, prendo, glieli raccolgo e glieli faccio trovare, c'era cioè, viene se li prende, capito? E quello è una zona buona, perché il terreno deve essere buono. C'è un'amica che ce l'ha da casa, dall'altra parte però, dopo praticamente tu passi il bivio per andare verso Plattamona, ed è i primi numeri, c'hanno la casa lì, e c'hanno queste albicocche così grandi e buone soprattutto. Mamma mia, sulcine, albicocche, quella era la campagna del padre, poi gliel'ha ereditata, no? Ma tu devi assaggiare questi frutti, questo fruttetto l'ha piantato il padre, ma con due diabete di albicocca, cavolo, me ne ha regalato la busta un giorno, ma detto prendetene quante ne vuoi, ma veramente buone. Io ne avevo un albero, già, una bugia la vuoi sapere, sembravano pesche già, ma lo sai quanto facevano grandi e buone, dure, mi ha entrato l'animale e mi ha seccato l'albero, non è forse la vita di quell'albero, guarda, ogni anno c'erano albicocche qua, sembravano fresche, ma lo sai quanto era bello, quanto erano buone, anche perché io quando erano un po' verdi, così, conosco un signore qua vicino a lui che mi dava il decis per i vermi, capito? Ma guarda già, il decis vuole saputo dare, questo qua è un signore, diciamo che è una persona competente, e anche ha anche il patentino, ma già, campione del mondo, non vuole, guarda, mi è dispiaciuto così tanto quell'albero che quello è un albero bello, è entrato l'animale, me la mangia, me la secco. Che tipo di animale era, Gabri? Non lo so già che animale, comunque si mangia la radice dell'albero, te lo secca. Porco terolo rosso che si mangia le palme, così lo svuota. Bravissimo, bravissimo, bravissimo, proprio maledetto, guarda, è un maledetto. È un maledetto. Guarda, mi dispiace così tanto, adesso quell'albero lo devo prendere, mi... Adesso mi sembra settimana prossima lo tolgo del tutto e ne pianto un altro di quelli lì, lo prendo già un po' grandetto. E adesso è il periodo perché c'è freddo ancora, se poi cominci in primavera c'è già troppo caldo, meglio piantare adesso se devi piantare. Vorrei piantare gli alberi sì. L'anno scorso ho piantato 90 piante di pomodori. 90 piante di pomodori ho piantato, ho fatto 3 solchi di Camona, di San Martano, il Rio Grande e ciliegina da Terino. 90 piante in tutto era. Ma ci credi che ne ho mangiato pochissimi perché questa ha fatto un'annata, quest'aldo di seccagna, di cose, non riuscivo a prendere, non sono riuscito a prendere a curare i pomodori. Due anni fa sono uscita, è uscita, ho fatto una strage di pomodori, quest'anno, l'anno scorso diciamo, dai, 2022. Ho mangiato, sono vado a piante, ho mangiato 6-7 kg di roba. Io ho fatto un esperimento in terrazzo, ho visto su internet che praticamente aprendo il pomodoro in due, mettendolo sottoterra, nasceva la pianta, e ho voluto provare ed è nata, però ho messo 15 ciliegina, ma non c'è cantina di limoni, non si rosse e ne crescevano, mica lì. Certo, in una pianta non ne crescono centinaia, però 5-6 così li prendevo una volta. Intanto per casa. Ehi, ma era un esperimento che volevo fare per vedere se era vero che spuntava così la pianta, ed è proprio vero, cioè mi ha attecchito. E ogni tanto ho messo anche la menta, perché la uso per le favette e mi piace prendermela fresca, dai, la metto fresca. Prima, quando era troppo forte la pianta, la portavo, ti toglievo le foglie e le mettevo in freezer. Me ne usavo anche quelle quando non ne avevo di quelle fresche, però fresca è più buona nelle favette. A me piacciono i pomodori con il cuore di bue, quelli grandi li prendi, li tagli a metà oppure fai a spicchio, come due li metti, fai pomodoro, olio di semi buono, che va, olio, scusa, olio di semi, olio di oliva buono e menta, sale e menta, cosa ridaso, pomodoro e menta. Per piantare i pomodorini non so se deve fare, cioè ti devi prendere quei vasetti un po' lunghi, quelli alti e lunghi, te ne prendi due di quelli da 50 cm e ti pianti due piantine di ciliegino e due piantine di quelli Camona e tu non compri i pomodori. Io già lo so, perché poi l'avevo messa anche terra coccinata, quindi sono cresciuti belli ambrosi. Solo che fa tipo pianta arrampicante, capito? Attaccata al muretto e scendeva verso il giù, cazzo, ma come che mi piglia con i bumacchi attaccati. E la cannetta gli devi mettere, gli metti una cannetta e lei si appende, capito? Da dentro il vasetto, dalla punta del vasetto fino alla fine, sono i metti due, gli metti la canna e lei prende lì e si appende lì. La fa la guida, capite? Quando va a sollevare gli indirizzi verso destra o verso sinistra. Poi il pomodoro li devi tagliare tutte sotto, diciamo, le foglie, dove fa le foglie, gli cresce una specie di ramoscello tipo nell'ascella del gambo, quella va tolta. Lo stesso di tutti quelle cose, tutto tirare i pomodori. Sì, lo so, poi di carrette ne ho messo 3 per reggere la pianta, tutte attorno, e poi ne ho messo un giro di faccio un giro di lezza perché non ci avevo spago, e faccio un giro di lezza di modo che li tenga fermi, no? E niente, e ho visto che sono cresciuti e stanno crescendo anche quest'anno, deve essere avanzato qualche seme, qualche cosa è rispuntata la pianta, capito? La sola, così, senza metterli nulla, rispuntata. Sì, sì, vabbè. Tu prova quello che sto dicendo io, poi prendi e rimetti il concime, la vera cresce. Crescono bene, poi se stanno un punto che non prendono tanto sole, devono prendere la cosa giusta. Io quest'anno non sono riuscito a toglierne. L'ho fatto l'impianto a goccia, forse perché l'ho fatto l'impianto a goccia, non sono riuscito a toglierlo. Perché 2 anni fa gli ho messo l'impianto, gli ho annaffiato la pompa, nessun cresciuto, e quest'anno l'impianto a goccia troppo caldo e non ha chi più un preso. Quest'anno l'ho ripianto però, cioè non ho mangiato un citriolo, ho ripiantato i citrioli, lucchina una, 2 anni fa non facevo un tempo a raccogliere fiori di zucche, cioè regalando fiori di zucche, e vabbè, quest'anno vedremo un po' come va. Vabbè, se c'è il terreno fai bene che ti pianti qualche cosa, ti passi anche il tempo. E vabbè, il pomodoro vuole innaffiato bene, non è che a goccia forse va male, perché li bagna le foglie e poi col sole li fa da lente e le fa seccare. No, a goccia a terra, eh. L'impianto a goccia ha messo a solco, mi segui, non in alto. Però deve essere, siccome qua è molto sabbioso il terreno, è molto sabbioso, qua secondo me in piantagoccia non va bene, qua ci vuole acqua perché drena subito, cioè tu come le dai l'acqua prende e se la assorbe, quindi ci vuole, mi dicono che il pomodoro bisogna anche un po' fargli soffrire l'acqua, non annaffiarlo sempre, un casotto, però questo terreno secondo me ci vuole l'acqua tutti i giorni. Quello di un terreno buono. Beh, la vigna ci puoi piantare lì, se c'è posto per fare mettere uva, lì è l'ideale quella zona lì. Ce li ho due filari, tolgono un'uva spettacolare. Spaliera? Uva a tavola. Di quella grossa, croccante, Italia. Sì. Allora ho due. Ci sono due piante di quell'uva dolce, di moscato, e poi c'è il fuoco, prosegue con l'uva alla tavola, quella grossa, e poi l'uva nera. No, a me la nera non piace, però il moscato è un'altra, sì, solo che è troppo dolce per lui. Io uva non ne mangio lo stesso, ma io non mangio neanche fichi. Ho un albero qua che fa quei fichi neri, quelli grandi, li fa sia a giugno, i fichi di giugno, quelli d'estate, mi avviga, però non ne mangio, li regalo anche quelli. Io se mangio un fico cesco di testa mi sarà vicino alle stelle, è lo stesso se mangio l'ufa. Poi ho 4 anni di pompelmi. No, non è un frutto che a me piace questo, il pompelmo no, l'arancio sì, ma il pompelmo proprio lo faceva come cura, come dieta, lo faceva mia comare, e sai quanto è dimagrito, ogni mattina si faceva la spremuta in pompelmo. Alla Nigado, guarda, una cosa allucinante. Lo so che fa dimagrire, però questo qua deve essere qualche innesto con l'arancio, capito? Perché non è agrissimo, è molto buono questo qua. E fa bene, il pompelmo fa bene. Però è tutta roba che vorrei curare, io qua già non mangio, io me lo vedi. Devo prendere, pulire, fare, tagliare, spuntare il secco, cose, io già viene proprio roba di là già. Ma è proprietà tua, Gabi, o se l'affitto? No, questa è nostra. Mia moglie. E allora va bene. Sì, che roba tua, ci puoi fare quello che vuoi. Quando se l'affitto di meno, ma quando la roba tua puoi destreggiare come vuoi. Sì, vabbè, non è mai roba tua, non è mai roba tua, già lo sai come sono i tempi, che non è mai roba tua, comunque. Se tu guarda tu, ma è la casa tua, ma paghi cosa, paghi condominio, e paghi quello e quell'altro, quell'altro ancora, cioè alla fine per cosa te l'hai comprata a fare la casa? Cioè alla fine per cosa se uno se la compra a fare la casa? Per esempio comprare la casa così in un condominio, cosa? Assolutamente no. E quando non ci sono lavori straordinari, quello che ti mette l'avvocato perché gli abbiamo fatto pagare troppo l'acqua, e l'altro che, guarda, spese su spese, questa casa mi stanno un bel di spesa. Il condominio è una rata, proprio una rata. Non ci avevi pensato già di metterla in vendita e prendere, andare a vivere anche in una casa, come può essere in campagna, queste cose qua? No, a me non piace, Gabi. Sinceramente mi piacerebbe avere una casetta con poco terreno, però. No, ma questa qui, vabbè, questa qui adesso l'ho data in usufrutto, cioè l'usufrutto perché l'ho intestata a miei figli. Quando io muoio è loro, sino a quando non muoio praticamente è la mia. Solo che non la posso vendere perché l'ho messa in usufrutto a loro, capito? No, ho capito. Ma tu non la vendi neanche perché tu non puoi portare l'antenna sul tetto, non sei nato e non puoi dominare, secondo me. Cosa? Non ho capito. Ho detto che tu quella non la vendi perché altrimenti non c'è l'antenna abbastanza alta, non puoi dominare. No, quello sarebbe il minimo, va. Si può mettere un traliccio, qualsiasi cosa, per farla alta. Io ho visto certi di tralicci che fanno spavento. E tu non l'hai mai visto? Se capiti nella strada, girati, ero lì. Io sono a 16 metri da terra. Già va bene, allora. Ma tu l'hai piazzato sul tetto? Sì. Io l'ho piazzato sul tetto il mio, però l'antenna dal suolo è 16 metri. Ah, ecco. Più la casa. No, è compresa la casa. È compresa la casa. Tra tralicio e casa ci sono 16 metri. Va bene, allora, dai. Va bene. Quando sei in campagna puoi fare di tutto. Puoi fare di tutto. Di navi vuoi, è da voi. Se vai di là, fai tutto. No, vabbè, già. Io l'ho fatto perché ce l'avevo la roba, altrimenti non l'avrei mai fatto. Non l'avrei mai fatto. Beh, se no, tu come fai? A comprare i tralicci, io questi qua erano quelli che avevo ricchi di lavoro e piuttosto di prendere e tenerli fermi li ho usati per quello, ma non se sarebbero stati quelli che usavo logicamente con i tralicci di lavoro per mettere l'antenna. No? Che materiale sono? Zingati sono in acciaio, come sono? Alluminio è già, alluminio. Sono 12 metri in alluminio, sono traliccio a 3, diciamo triangolare, 30x30 in alluminio. Ah, cioè va bene allora, cioè non arrugginisco. No. Sono quelli che si usano per fare i palchi, però è triangolare. Sì, ho capito quali sono. Ma già va bene, dove si piazzano le luci, eccetera. Sì, però sono schedulati grossi, non sono giocattolini, sono schedulati grossi. Tu pensa, ogni metro di quel traliccio tiene 500 kg, ogni metro. Ha la certificazione di 500 kg al metro. Già sono abbastanza robusti. Sì, sono schedulati bene. E va bene. Io stanotte non è entrato nessuno, e neanche Franco. Oh, Franco è arrivata la compagna adesso. Allora niente. non entra proprio nessuno la notte, magari mi sono l'ascolto, però. Sono tutti Dumbo con le orecchie grandi. Le orecchie grandi, ci stanno tutti gli anni loro. Comunque, noi già siamo qua, io non ho problemi, non ho problemi perché già bello, a me piace di più la stare la notte in radio piuttosto che di giorno, la notte è più bello. È più pacifico, più tranquillità c'è. Sì. Uioia. Ha cambiato qualcosa già? Stiamo colorando questo binario tutta notte. Ha cambiato qualcosa? Hai sentito il radio più basso, il segnale più basso? No, è più alto, signor. A quanto sono? Guarda un pochino, portante bianca, demodulazione. Ola. Tip. Ola. 9.30, positivo, allora già va bene, riesci a toccarlo adesso, a toccarlo appena adesso viene a lei. La ventola inserita, è freddo, è come che si sia spento, Io ho avuto lo stesso lineare, c'ho anche la ventola con l'interruttore, e ho fatto la ventola con l'interruttore sopra, lo accendevo e lo spegnevo quando volevo. L'avevo attaccato col via adesivo sopra il lineare, e non si è mai staccato, la verità è un via adesivo che è buono, quello rosso. Molto buono con la via adesiva, non si è mai staccato e attaccavo quando volevo io, accendevo, c'era l'interruttore e attaccavo. Sì, anche questa qua c'è l'interruttore, è una ventola grande quasi quanto il lineare, però lo tiene bello freddo, veloce, non fa neanche rumore, e va bene, non ce l'hai più tu quello lì già? No, non ce l'ho più. L'ho venduto perché, vabbè, per passare qualcosa di meglio e mi ho venduto quello lì. L'ho venduto 40 euro, mi va. Cosa c'hai tu, il RAM adesso già? RM Italy. Sì, l'RM Italy. Cos'è quello a 300 watt? No. È bello quello lì, quello è bello, cosa costa? Quello lì è un 400 euro, viene lo stesso, vero? Sono 280, adesso mi ricordo bene. Cosa c'hai già? Cosa ti è successo alla radio? Non avevo abbassato, guarda adesso. Sì, è perfetto. Sulle 100 qualcosa viene? No, di più, 170, se non mi ricordo bene. Ok, è quello blu? È quello? Se detto non ti ho capito. No? Cos'è, quello blu o quello grigio? Quello nero. Ah, bello. Bello. Va bene. Gianni, io faccio la nanna, che sono, che c'ho un po' di sonno. E anche io domani sono un po' strano, perché alle 8:00, 7:30 deve essere lì, se no si riempie di gente. Dai capi, ci sentiamo, dai, buonanotte, stammi bene e buon lavoro per domani, ciao. E io ciao già, buonanotte, ci sentiamo domani, fatela bene, a domani, buonanotte.